Quando sono qui, parlare della vita mi sembra così strano, mi sembra così vero, che scrivo una canzone lasciata forse troppo a maturare. Andare via di qui per poi tornarci sempre e non vedere l'ora di partire e di tornare, star bene al proprio posto, lo stesso che in fondo mi fa stretto. E poi mi chiederò, mi domanderò, lasciare un mondo per poi viverne un altro, due diversi destini oramai. Sulle dita, tornare ad ogni costo, ad essere qualcuno al proprio posto. Nessuno sentirà che forse siamo passati, io non mi girerei, altri si sono girati. Ricorrere quel tempo, scomparso troppe volte in un momento. E farsi trasportare da quello che ci vuole una società, nel bene o nel male, c'è chi ti dice bravo, c'è chi ti dice scemo, che puoi fare? E poi mi chiederò, mi domanderò, lasciare un mondo per poi viverne un altro, due diversi destini oramai. Pensare che non riesco mai a farmi smettere, non riesco mai, non riesco mai, fermami se vuoi. Non è facile dover scegliere, sbattendo contro il muro la parte di me, a volte chiudere non è facile, non lo è per me. Non riesco mai a non pensare che, e non riesco mai a farmi smettere.